Ad alta voce. Massimo Popolizio legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. In che posso ubbidirla? Disse Don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale, ma il modo in cui erano proferite voleva dir chiaramente: bada chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati. Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo non c'era mezzo più sicuro e più spedito che prenderlo con maniera arrogante. Egli che stava sospeso, cercando le parole e facendo scorrere tra le dita le ave marie della corona che teneva a cintola, come se in qualcheduna di quelle sperasse di trovare il suo esordio, a quel fare di Don Rodrigo si sentì subito venir sulle labbra più parole del bisogno. Ma pensando quanto importasse di non bastare i fatti suoi, o ciò che era assai di più, i fatti altrui, corresse e temperò le frasi che gli si erano presentati alla mente e disse con guardinga umiltà: «Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla di una carità. Certi uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere e per soverchiare due innocenti. Lei può, con una parola, confonder coloro, restituire al diritto la sua forza e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel violenza. Lo può, e potendolo, la coscienza, l'onore. Lei mi parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode ne sono io e io solo, e che chiunque ardisca entrare a parte con me di questa cura lo riguarda come il temerario che l'offende». Fra Cristoforo, avvertito da queste parole che quel signore cercava di tirare al peggio le sue per volgere il discorso in contesa e non dargli luogo di venire alle strette, si impegnò tanto più alla sofferenza, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all'altro di dire, e rispose subito con un tono sommesso: «Io, se ho detto cosa che le dispiaccia, è stata certamente contro la mia intenzione. Mi corregga pure, mi riprenda, se non so parlare come conviene, ma si degni ascoltarmi, per amor del cielo, per quel Dio a cui il cospetto dobbiamo tutti comparire». E così dicendo, aveva preso tra le dita e metteva davanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore il teschietto di legno attaccato alla sua corona. Non s'ostini a negare una giustizia così facile e così dovuta a dei poverelli. Pensi che Dio ha sempre gli occhi sopra di loro e che le loro grida, i loro gemiti sono ascoltati lassù. L'innocenza è potente al suo...» «Ehi, padre!» interruppe bruscamente Don Rodrigo. «Il rispetto che io porto al suo abito è grande, ma se qualche cosa potesse farmelo dimenticare, sarebbe di vederlo addosso a uno che ardesse di venire a farmi la spia in casa». Questa parola fece venire le fiamme sul viso del frate, il quale però, col sembiante di chi inghiottisce una medicina molto amara, riprese: «Lei non crede che un tal titolo mi si convenga, no? Lei sente in cuor suo che il passo ch'io fo ora qui non è né vile né spregevole, ma ascolti, signor Don Rodrigo, e voglia il cielo che non venga un giorno in cui si penta di non avermi ascoltato. Non voglio metter la sua gloria, ma qual gloria, signor Don Rodrigo, qual gloria dinanzi agli uomini e dinanzi a Dio? Lei può molto quaggiù, ma sa lei», disse Don Rodrigo, interrompendo con istizza, ma non senza qualche raccapriccio, «sa lei che quando mi viene lo schiribizzo di sentire una predica io so benissimo andare in chiesa come fanno gli altri? Ma in casa mia, oh!» E continuò con un sorriso forzato di scherno: «Lei mi tratta da più di quel che sono. Ah, il predicatore in casa, ma non l'hanno che i principi. E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire nelle loro regge, è quel Dio le usa ora, un tratto di misericordia, mandando un suo ministro, indegno e miserabile, ma un suo ministro, a pregar per una innocente. Insomma, padre, disse don Rodrigo, facendo atto d'andarsene, io non so quel che lei voglia dire. Non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada a fare le sue confidenze a chi le piace e non si prenda la libertà di infastidire più a lungo un gentiluomo. Al muoversi di don Rodrigo, il nostro frate, che s'era messo davanti, ma con gran rispetto e alzate le mani, come per supplicare, per trattenerlo ad un punto, rispose ancora: «La mi preme, è vero, ma non più di lei. Son due anime che, l'una e l'altra, mi premon più del mio sangue, don Rodrigo. Io non posso far altro per lei che pregar Dio, ma lo farò ben di cuore, e non mi dica di no. Non voglio tenere nell'angoscia e nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può far tutto». «Ebbene», disse don Rodrigo, «già che lei crede che io possa far molto per questa persona, già che questa persona le sta tanto a cuore, ebbene», riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l'atto e il contegno di don Rodrigo non permettevano d'abbandonarsi alla speranza che parevano annunziare quelle parole, «ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le mancherà più nulla e nessuno ardirà di inquietarla, o che io non son cavaliere». Assì fatta proposta, l'indignazione del frate, rattenuta a stento fino allora, traboccò. Tutti quei proponimenti di prudenza, di pazienza, andarono in fumo. L'uomo vecchio si trovò d'accordo col nuovo, e in quei casi fra Cristoforo valeva veramente per due. «La vostra protezione!» esclamò, dando indietro due passi, postandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull'anca, alzando la sinistra con l'indice teso verso don Rodrigo e piantandogli in faccia due occhi infiammati. «La vostra protezione! È meglio che abbiate parlato così, che abbiate fatta a me una tale proposta. Avete colmato la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione. Sapevo bene che quella innocente è sotto la protezione di Dio. Ma voi me lo fate sentire ora con tanta certezza che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, dico, vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta e con gli occhi immobili. Come? In questa casa ho compassione di questa casa. La maledizione le sta sopra sospesa. State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre, a soggezione di quattro sgherri. Voi avete creduto che Dio abbia fatto una creatura a sua immagine per darvi il piacere di tormentarla? Voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla? Voi avete disprezzato il suo avviso? Vi siete giudicato? Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro e Dio ha saputo spezzarlo. Lucia è sicura da voi. Ve lo dico io, povero frate, e in quanto a voi sentite bene quel che io vi prometto. Verrà un giorno...» Don Rodrigo era fino allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non trovando parole, ma quando sentì intonare una predizione, s'aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento. Afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa e, alzando la voce per troncar quella dell'infausto profeta, gridò: «Escimi di tra i piedi, villano temerario, poltrone incappucciato!» Queste parole così chiare acquietarono in un momento il padre Cristoforo. All'idea di strapazzo e di villania era, nella sua mente, così bene e da tanto tempo associata l'idea di sofferenza e di silenzio, che a quel complimento gli cadde ogni spirito di ira ed entusiasmo e non gli restò altra soluzione che quella d'udir tranquillamente ciò che a don Rodrigo piacesse d'aggiungere. Onde, ritirata placidamente la mano dagli artigli del gentiluomo, abbassò il capo